42 mesi per fare la tesi, sputtano i miei soldi a puttane cinesi, mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese, mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi, io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi, conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi, le dissi sei secca, non mangi da mesi, e lei mi rispose no caro la tisi, serena e tifosa, capelli rasati, i segni dipinti di rosso su rosa, mi illusi e le chiesi ma quanti ne hai presi, già troppa son chiusa, deciso sto in stasi, di Marta ricordo le cosce e il suo naso, mi piace far sesso ma coi ceri accesi, la vuoi il mio rasoio così poi titosi, le rise sorrise però un po' si offese, e poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese, ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.